Intanto direi che iniziamo a introdurre un po' la serata, vi do alcuni avvisi. La serata di oggi viene come sempre registrata e la troverete poi, se avete piacere di riascoltarla, sul nostro sito, dove sono salvate e sono riascoltabili tutte le iniziative che dal 2002 in poi abbiamo fatto settimanalmente come biblioteca provinciale, quindi siamo nell'ordine di 600 e passa iniziative, ormai è un patrimonio storico della biblioteca. È molto interessante anche da curiosare, ecco, perché c'è un po' di tutto, ci sono tanti personaggi che hanno attraversato e accompagnato questa biblioteca negli anni, quando eravamo in via Mendola e poi negli ultimi 7-8 anni quando ci siamo trasferiti qua, compresa la pausa del Covid, quando noi siamo andati online con le numerose presentazioni su YouTube che abbiamo fatto, e anche quelle sono rintracciabili se avete piacere. Questa sera un grande ritorno, Marco Pugliese è qui con noi con il suo modo molto particolare di raccontare la storia, di individuare degli argomenti storici da raccontare e di incuriosirci, di invitarci poi ad approfondire i temi con delle letture, con degli approfondimenti. Insomma, è un modo molto accattivante per stimolare la curiosità e per le biblioteche anche di richiamare poi le persone a tornare e a leggere i libri, perché questo è il nostro compito, questa è la nostra missione, oltre che a quella di creare sempre delle occasioni di incontro e di confronto. Quindi ringrazio tantissimo Marco Pugliese, perché da tanti anni, vero? Abbiamo iniziato a lavorare insieme, e quindi sempre con tante idee molto stuzzicanti ci accompagna in questa rassegna. E questa sera abbiamo Bolzano 1900, una città, tante storie, come diceva prima, appunto è concepito in una maniera particolare, non vorrei svelare troppe cose, però insomma vedrete che, ecco, ha un modo, un approccio anche molto creativo oltre che didattico nell'affrontare gli argomenti, e questa serata si presenta come una serata molto interessante. Ne approfitto sempre, quando vedo che arrivano tante persone ai nostri incontri, di raccontare un po' anche gli eventi futuri. E la prossima iniziativa sarà lunedì 22 aprile alle ore 17:30. Inizieremo un percorso dedicato agli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare all'obiettivo dedicato alla parità, alla dignità, all'equità di genere, e quindi dedicheremo a un personaggio che ha avuto una storia, una parte importante della vita a Bolzano, ed è Maria Silvia Spolato, la quale viene raccontata in un libro biografico, dal taglio biografico, da Un pugno di polvere. E saranno con noi l'associazione Centaurus, Donne Liscià, le responsabili del progetto Gocce Tropfen, e quindi sarà la volta per conoscere da vicino un personaggio che purtroppo ci ha lasciato nel 2018. Era una persona che viveva senza una dimora fissa, ma che aveva una grande cultura e che ha saputo anche avere un grande coraggio in tempi molto difficili. E scopriremo perché lunedì 22 aprile alle ore 17:30, insieme anche all'autrice di questo libro, che vi ricordo si intitola Da un pugno di polvere, e scusate, devo togliermi gli occhiali. L'autrice Donata Miliak Milazzi sarà qui con noi e vi invitiamo, se avete voglia, di conoscere questo personaggio di Maria Silvia Spolato. Martedì invece 23 aprile alle 17:30, sempre qui presso il Trevi Lab, la biblioteca organizza una conferenza con la presentazione del libro di carattere storico. Il libro si intitola Anelli d'Italia, le date che fecero una nazione. Si tratta del primo volume, dagli indoeuropei al canto degli italiani. Gli autori saranno qui con noi e sono precisamente Mauro e Massimo Minniti, e verranno accompagnati nella presentazione di questo libro di taglio storico da Marco Angelucci, il giornalista di una edizione di un quotidiano locale. Infine abbiamo ancora un altro appuntamento anche questo dedicato sempre all'agenda 2030, quindi come vedete ci alterniamo dalla storia all'agenda 2030 e questa volta torniamo invece sulla sostenibilità ambientale ed economica. Avremo con noi una vecchia conoscenza, anche questa, che è Giacomo Sartori. Da noi tornano tutti, vero? Ecco, sì. Questo ci fa tanto piacere, anche Vinniti era venuto tanti anni fa, vero? Insomma, siamo contenti che poi in biblioteca si ritorna e anche i nostri ospiti hanno piacere di tornare. Allora, Giacomo Sartori, trentino, vive a Parigi ma ha tanti amici a Bolzano. È molto apprezzato anche perché di Bolzano, in particolare dell'Alto Adige, ha una grande curiosità e l'abbiamo conosciuto soprattutto nell'ambito narrativo. Per citarne uno, Tritolo, la vicenda romanzata degli omicidi che si sono susseguiti a Merano, a Riffiano e a Sinigo nella fine degli anni 90. Ecco, è un autore molto apprezzato, ma che svolge anche un'attività parallela, che è quella di botanico, per cui questa volta ci racconterà, ecco, coltivare la natura, quindi cibarsi nutrendo la terra, ed è un circolo virtuoso che ci racconterà come esperto, però in un altro settore. Finisco qui lasciando la parola a Marco Pugliese e vi ringrazio per essere qui con noi. La mattina ogni tanto noi organizziamo delle letture ad alta voce, se avete piacere tenetevi in contatto con noi, siamo qui dalle 9 alle 18, tranne nei prossimi giorni dove ci saranno delle festività per cui il Trevi Lab sarà chiuso al pubblico per alcuni giorni e poi continueremo con la rassegna di iniziative fino a giugno compreso e poi ci ritroveremo a settembre. Grazie intanto e buona serata. Grazie Marco. Io ringrazio Valeria e ringrazio sempre per lo spazio, infatti sono 14 anni ormai che collaboriamo. Anch'io presenterò il mio libro poi qui in prima a Bolzano, perché l'ho già presentato in giro per l'Italia, ma mi sono tenuto la biblioteca da anni faccio queste iniziative per presentarlo la prima volta. Il libro però è di economia, non è di storia, quindi sarà diverso, anche un po' storico ma più economico. E per oggi invece, a parte il titolo che poi vi spiego proprio al volo, ho cercato di creare questo incontro, questa conferenza, basandomi sul teatro, cioè l'ho diviso in quattro atti e l'ho diviso anche con un incontro che è un po' romanzato, perché di fatto all'interno, ve lo posso svelare, è un po' come saranno conosciuti mia zio e mia zia, che tu conosci molto bene, Valeria, i miei vecchi zii, e quindi ho preso spunto da questo per creare questa piccola storia di una città che è cambiata durante il Novecento. E ovviamente vi spiego solo questa immagine, questi due sono Luisa e Mario, ovviamente i nomi sono di fantasia, e qui siamo negli anni 20 e l'era del cambiamento. Sono partito dagli anni 20 perché ho proprio dato il titolo Bolzano 900, 1900, quindi tratterò il secolo breve, per qualcuno è stato il secolo breve del Novecento, e vi farò vedere una panoramica di foto storiche che io preferisco, me le sono salvate, metterle diciamo a casaccio e non con un canovaccio, perché sennò diventa una cosa, secondo me, un po' troppo pesante. Vi racconto quella che è stata la genesi della città di Bolzano dall'inizio del Novecento, quindi dall'epoca austro-ungarica fino ai giorni nostri, e lo faccio appunto anche nelle parole di questi due ragazzi. E quella che vedete in foto è una foto modificata, cioè non è una vera foto, è un'immagine modificata che mette insieme più immagini. Il tram è preso da una foto storica bolzanina e il campanile è una rivisitazione del campanile della stazione, della torre dell'orologio, della stazione di Bolzano. E ovviamente è stato rivisitato dall'intelligenza artificiale, cioè ho voluto fare un esperimento, ho messo dentro queste foto in un programma e me le ha... le foto dei miei due zii me le ha trasformate così e la foto di Bolzano me l'ha trasformata così, più che altro perché ho tenuto l'orologio come fil rouge, quindi ipoteticamente questi due ragazzi si conoscono sotto la torre dell'orologio, e ho tenuto l'orologio proprio come simbolo del passare del tempo. Chiaramente è una cosa un po' banale, lo so, però era per tenere un qualcosa di monumentale, che è appunto il campanile della... Io lo chiamo campanile perché, e qui parto proprio con la vera e propria conferenza, e scusate se ogni tanto saltello, ma perché è perché metto le foto storiche. E parto dal campanile perché Bolzano molte volte non è assolutamente detto e raccontato, ma Bolzano è una città che ha dei campanili un po' particolari. Allora, il primo campanile, e io li chiamo campanili anche se sarebbero torri alcune, è quello della stazione di Bolzano. Un secondo campanile, quello però invece è proprio un campanile, è quello dell'Eurac. E il terzo campanile è quello della Chiesa Cristo Re, che è stato costruito dopo. Allora, questi tre campanili sono particolari, perché quello della stazione richiama praticamente la stazione di Londra, quindi l'architetto si è rifatto alla stazione di Londra. Questa è una vecchia foto della stazione, come potete vedere. E perché quel campanile? Perché la stazione di Londra, l'architetto che l'ha costruita voleva proprio dare il tempo con i treni, quindi c'era tutta una rivisitazione del tempo nella storia dell'uomo, e per l'architetto era il campanile significava che si potevano fare le cose con più velocità, perché entravamo in quella che era la rivoluzione industriale, che poi diventerà Belle Époque. Quindi Bolzano ha una storia molto particolare sulla Belle Époque, perché aveva un sindaco a quel tempo, un borgomastro che si chiamava Julius Peratoner, che fece molto per modernizzare la città, e lo fece in versione anti-Innsbruck, cioè lui faceva in modo di farsi mandare più fondi possibili per rendere la città il più moderna possibile. Quindi era l'era dei tanti treni, quindi tante ferrovie costruite, la Bolzano Caldaro per esempio, funivie, l'illuminazione elettrica, la stazione appunto rivisitata, la linea del tram, quindi tutto quello che a inizio Novecento era considerato moderno a Bolzano c'era di fatto. Per una città non tanto grande e verso il confine come era quella bolzanina, non è da poco in quel periodo. E da qui entro a tante storie una città. Cioè, la città di Bolzano, camminando, ha più storie, più stili architettonici e più architetti. E io ne prendo tre. Il primo è Altman, che ha, senza andare alla De Medici, perché se fossimo onesti, la prima persona che diede uno stile di un certo tipo fu la De Medici, che portò al Rinascimento qui e fece in modo, da mecenate, di portare tutta una certa mentalità a Bolzano. Quindi la prima contaminazione di quel tipo è la De Medici. Però noi partiamo dal Novecento fino all'Ottocento, quindi abbiamo Altman, che è l'architetto che ha costruito, che ha dato il via alla Bolzano che conoscete, alla Bolzano dopo il Ponte Talvera, quella vecchia, quella che i bolzanini dicono andiamo in città. Quella è la Bolzano di Altman. Monumentale, anche quella. Infatti qualcuno, quando ci fu la costruzione della nuova università, disse ma c'è un cubo. In realtà la nuova università riprende un po' quella che era l'idea di Altman, che so che può sembrare strano, ma in realtà a quel tempo lì un attimino la linea era quella. Quindi non è proprio vero che quando hanno ricostruito, certo il palazzo del vecchio ospedale secondo me era molto più carino, però l'architetto ha ripreso quella roba lì. Quindi la Bolzano di Altman. Poi, superando il ponte, abbiamo la Bolzano di Piacentini, con tutta una serie di edifici. E uno dei gioielli architettonici, io parlo proprio a livello architettonico, è il Lido di Bolzano, che però non è di Piacentini, ma è di Ettore Sottsass, che è un architetto cioè lui era nato sotto l'impero austro-ungarico, però lui è trentino tirolese, con anche moglie austriaca. È interessante perché anche il figlio, che si chiamava Ettore Sottsass Junior, divenne uno dei più grandi designer del Novecento. Quindi le macchine da scrivere Olivetti, le calcolatrici Olivetti, Sottsass. Infatti sarebbe bello, qua lo lancio come provocazione, se al Lido di Bolzano venisse messa questa cosa, perché insomma quella famiglia ha dato parecchio al design, ma soprattutto all'architettura. Ecco, adesso vado avanti con qualche fotografia e poi vi leggo. Ok, qui per farvi capire un secondo, il virgolo. questa era una parte molto interessante di quella città che aveva in testa per Atoner. Perché? Perché era una città votata all'ospitalità, quindi turistica, però un certo tipo di turismo di inizio Novecento, e soprattutto era votata proprio alla modernità, all'agiatezza. Quindi se voglio andare sul Virgolo, se voglio andare a farmi una passeggiata, però ci posso arrivare anche senza passeggiare. Quindi l'atteggiamento era molto moderno da quel punto di vista, cioè si puntava molto sulla comodità. È chiaro che in maniera diversa rispetto all'oggi, con altri numeri, però quello era. Io sono convinto che quel tipo di città sia comunque rimasta nelle corde degli architetti che sono arrivati dopo, perché di fatto Bolzano entra da quello che era il periodo imperiale asburgico a quello che era il periodo poi fascista e anche imperiale, perché ricordiamoci che il fascismo riprendeva molto la romanità. Quel periodo lì storico, quindi gli anni 30, negli architetti a Bolzano lo si vede tantissimo da quel punto di vista, ma non tanto per il monumento alla vittoria, lo si vede da altre cose, per esempio dal palazzo dell'Eurac. Perché dico il palazzo dell'Eurac? E qua vi dico di nuovo, vi ricordo i campanili, perché se voi avete notato, il palazzo dell'Eurac ha un bastione, quindi un campanile, venendo dal Ponte Druso. Fateci caso adesso che ve lo sto dicendo. Quando voi salite sul Ponte Druso e state tutti sulla sinistra o state tutti sulla destra, per un'illusione ottica il campanile vi compare sempre al centro. Cioè voi il campanile lo vedete per forza, il campanile dell'Eurac. E vi garantisco che quella struttura è disegnata secondo la mistica fascista, più del monumento alla vittoria, che invece è un arco di trionfo e riprende la solita questione. Perché? Perché Mussolini, per un periodo della sua cavalcata politica, fu, se vi ricordate, socialista e soprattutto anticlericale. Tant'è che quando era in Svizzera, nonché renitente alla leva per un periodo, lui si vantava di non farsi fulminare da Gesù Cristo alla fine dei comizi, dicendo: se esiste che mi fulmini, perché utilizzava una serie di parole volgari, eccetera, eccetera. In quel periodo lì coniò un modo di dire. Siccome ce l'aveva molto con la Chiesa, che secondo lui aveva ostacolato il Risorgimento, ostacolava comunque, disse che una volta preso il potere ci dovesse essere per ogni campanile cattolico, quindi il richiamo alla messa, le campane, ci dovesse essere un campanile di mistica fascista per richiamare all'interno delle strutture fasciste o comunque dello Stato le persone iscritte, bla bla bla. Quindi non è che era casuale che non avessero costruito il campanile a Cristo Re. Non ci doveva proprio stare il campanile, perché la chiesa di Cristo Re è vicino al Palazzo degli Uffici Finanziari, giusto? E c'è Piazza Tribunale. Ma cosa era in realtà l'ufficio finanziario? In realtà era la Casa del Fascio. Quindi, siccome la Casa del Fascio rappresentava il potere dello Stato fascista, di fronte c'era il Tribunale, che doveva sottostare alle leggi dello Stato fascista, e di fianco c'era la Chiesa, che doveva sottostare alle leggi dello Stato fascista. Quindi non richiamava nessuna messa. Questo era il simbolo che veniva messo all'interno dei monumenti. C'è un bel libro, Fascismo di pietra, che vi spiega questa roba un po' in tutta Italia. Però su Bolzano io non l'avevo mai visto scritto. Cioè l'ho visto scritto, in realtà l'ho sentito a una conferenza di architetti a Firenze, paradossalmente, però non l'avevo sentito mai dire a Bolzano. E Bolzano in realtà ha queste strutture. Poi il lido di Bolzano è una grande L, la L di Littorio. Le vasche sono a forma di L, togliete la vasca nuova, quindi dall'alto. L'Eurac è tutto un incastonamento di L. Anzi, se voi guardate la torre dell'Eurac, fa la L. E le Longon anche, vero? Esatto, quelle, esatto. Stessa cosa, ovviamente, anche lì. Il complesso del Lido è un complesso che si chiamava Gil. Ok? Quindi c'era l'ex Gil, quindi c'era la Gil, lo stadio e la caserma che oggi è una scuola, che è Leonardo da Vinci. Infatti se guardate venendo dal Lido, usciti dal Lido, voi vedete ancora il frontone con gli alpini attaccati su quella che è l'entrata secondaria della scuola primaria. Quindi questo per farvi capire che la simbologia è molto forte. Non che a inizio Novecento non avessero questa simbologia, perché Julius Peratoner fece costruire fece erigere la statua di Walter guardando a sud. Quindi Walter, poeta tedesco, che guarda a sud. Di contraltare, i cittadini di Trento fecero costruire Dante, che guarda a nord. Quindi eravamo a inizio Novecento e quelle robettine lì già le facevano. No, per farvi capire che, sì, diciamo che i trentini lì, tanto di cappello, perché la statua venne pagata dagli abitanti di Trento che diedero delle offerte. Un po' diverso dal Partenone, che come sapete fu invece pagato con una serie di escamotage perché il costruttore era un po' tirchio. Invece a Trento invece gli abitanti lo fecero proprio in segno di riconoscenza e di sfida. A tal proposito vi metto questa foto interessante di come avrebbe dovuto diventare Piazza Vittoria. Questa è una foto interessante perché è di un plastico, è molto rara e manca una cosettina, perché c'era stato a Roma, avevo trovato un'altra foto che purtroppo non ho più ritrovato, cioè l'avevo fatta io in realtà, perché uno degli architetti del pool di Piacentini avrebbe anche voluto fare una ricostruzione storica dell'isola Tiberina. Avete presente l'isola Tiberina a Roma, quell'isola sul Tevere, che era completamente edificata al tempo dei Romani, cioè era un'isola edificata al 100%, voleva ricostruirla sul Talvera, cioè farla dentro nel Talvera. Ovviamente quella roba non la fecero, però l'idea, come vedete, era questa qui, quindi rifare anche il ponte Talvera. Il ponte Talvera avrebbe dovuto avere anche degli alberi, quindi questa struttura qui con due probabilmente obelischi che sarebbero stati fatti arrivare qua, e quella che vedete al centro, la Piazza della Vittoria, un po' diversa, perché avrebbe, la Piazza Vittoria si chiamava Foro della Vittoria, quindi aveva proprio l'immagine d'abbraccio. Se vedete qui, c'è proprio l'abbraccio della piazza. Ovviamente questo è copiato da Piazza San Pietro, è la stessa struttura. L'interesse, se voi siete in Piazza Vittoria, purtroppo hanno tolto i disegni, forse poi li rimetteranno con i nuovi lavori, speriamo, i disegni che c'erano sulla pavimentazione, se vi mettete sotto il portico dove c'era la vecchia libreria Cappelli e vi spostate quando c'è il sole che sta tramontando, il sole entra esattamente nel marmo di Carrara del monumento e proietta la bandiera di Bolzano di rosso e di bianco. È proprio voluta dall'architetto, questa non è una roba inventata, ma è proprio voluta dall'architetto. Erano dei messaggi che venivano inseriti all'interno delle opere e che non sempre vengono spiegati. Quindi questo è interessante perché c'è tutto questo gioco. Ovviamente questa era la risposta di Piacentini, tramite Mussolini ovviamente, a quello che avrebbe dovuto essere al posto del monumento, quindi il monumento ai Kaiserjäger, costruito durante la guerra, demolito, eccetera, eccetera. Quindi è per farvi solo capire quante storie ci sono state all'interno di una città di 100.000 abitanti, e che adesso ne ha 100.000, che al tempo ne aveva molti meno, e che avrebbe dovuto diventare una città da 300.000 abitanti. L'idea era quella di costruire fino ad Appiano, di inglobare l'Aives, motivo per cui c'era proprio questo progetto della grande Bolzano, che non fu realizzato. A dire la verità, anche Peratoner aveva l'idea di... Infatti lui avrebbe voluto già annettersi Gries prima della Prima Guerra Mondiale, ma Gries non aveva voluto. Poi, vabbè, con un decreto Mussolini fece unire Gries con Bolzano. Però l'idea era già di inizio Novecento. Un altro edificio importante, qui andiamo in epoca austro-ungarica, è quello della Cassa di Risparmio. Questo edificio che trovate in via Cassa di Risparmio di fronte al museo è interessante perché è un edificio che non è stato demolito dal fascismo, ma è stato rivisitato. Questo è un edificio molto, cioè era molto bello perché era molto, come vedete, strutturato non in maniera classica, quindi era molto diverso rispetto al monumentale di Altman. Era un po' più barocco, se vogliamo utilizzare, più Belle Époque forse, anche se non è proprio un art déco, però era un po' diverso. Questo è interessante perché in questo palazzo in realtà mi dicevano che prima della Prima Guerra Mondiale si facessero lì le riunioni strategiche riguardo a truppe, non truppe, eccetera. Si facevano in quel palazzo lì e non nella sede dei comandi, per tutta una serie di ragionamenti spistici e spionistici che mi raccontarono. Quindi questo è un palazzo che per Bolzano in realtà ha una storia molto particolare. E avevo anche un piccolo aneddoto che semmai vi racconto dopo, se no poi non riesco a farvi vedere tutto. E nel frattempo vi leggo quello che negli anni 20 e 30 poteva essere interpretato da due ragazzi giovani, quelli che vi ho fatto vedere nella prima foto. Scusate se faccio questi giri, ma così ci... Ok. Vedete, poi il secondo atto è invece la ricostruzione. Il terzo atto, scusate i colori, ma questi non l'ho scelto io, ma il terzo atto invece sono i venti del cambiamento e l'ultimo atto invece è il nuovo millennio. È interessante perché c'era sempre la foto dei miei due zii nella cosa che ho messo dentro, quindi me l'ha trasformata, insomma, zio Paolo, non so se la vedesse. Comunque, vi leggo un attimo quello che... Questo ovviamente l'ho scritto io, quindi è romanzato, e appunto si basa un attimo su questa conoscenza e ha come sfondo l'attore dell'orologio. L'attore dell'orologio è per antonomasia, no? Un qualcosa, anche il film con Michael J. Fox, Ritorno al futuro, ha l'attore dell'orologio perché l'orologio sulle torri, nelle città, prima c'era la meridiana, quindi anche la torre della stazione di Bolzano ha quel senso di tempo, cioè il viaggiatore guarda l'orologio, la persona che va davanti alla stazione guarda l'orologio, e qui è bello perché è un messaggio che vale per tutte le epoche e praticamente per tutti i ceti sociali e per tutte le etnie anche, perché qualsiasi tipo di persona ha nell'orologio questo tipo di messaggio, cioè non lo puoi vedere diversamente. Quindi lo sfondo è l'orologio. Allora, siamo appunto negli anni 20 e l'orologio è già vecchio però, quindi questi due ragazzi dicono: hai visto Luisa? Stanno cambiando le insegne in piazza. Ovviamente le insegne in piazza cambiavano perché stavano cambiando i cartelli a Bolzano, quindi si passava da cartelli in tedesco a cartelli prima in due lingue e poi solo in italiano per un periodo. Stanno cambiando le insegne in piazza e quel vecchio orologio è ancora lì, impassibile, perché effettivamente per quanto la piazza della stazione l'abbiano cambiata, rivoluzionata, sistemata, eccetera, l'orologio è rimasto sempre lì. Luisa, è come se guardasse Bolzano trasformarsi dalle carrozze ai tram, perché qui già c'era l'idea di cambiamento moderno, cioè Bolzano era partita dalle carrozze, cioè c'erano le carrozze fino a 20 anni prima, adesso invece chi arrivava a Bolzano nel 29, nel 30 prendeva il tram. Motivo per cui quando mia nonna arrivò qua nel 32, la prima cosa che notò fu: scendo dalla stazione e vado sul tram, come nelle grandi città, cosa che invece non c'era in altre città più piccole come potesse essere. Bolzano fu molto coccolata in quel periodo perché chiaramente a livello strategico andava ripopolata. È come se guardasse Bolzano trasformarsi dalle carrozze ai tram e ora con questi nuovi edifici in stile fascista, perché chiaramente la stazione venne ritrasformata, quindi passò di proprietario. Il fascismo si comportò un po' come gli antichi romani, quando dovevano cambiare un po' di architettura, buttavano giù, rifacevano oppure ricostruivano in un certo modo. Esatto, è un testimone silenzioso, ma mi chiedo se approva quello che vede. La modernizzazione è inevitabile, ma a quale prezzo? Forse lo scopriremo solo andando avanti. Per ora può solo segnare il tempo, mentre noi lo riempiamo di vita e di colori. Questo era inizio anni 20 e il dialogo è positivo. Perché? Perché i ragazzi, e ho letto anche parecchie cose che scrivevano i ragazzi giovani di quel tempo, facendo questa conferenza nei diari, erano dei ragazzi che erano pieni di sogni. I ragazzi degli anni 20 e 30, degli anni 20 non avevano in testa cose negative, erano pieni di sogni, un po' in tutte le parti del mondo. Anche in quel mondo, per esempio l'India, conobbe in quell'epoca lì il Gandhi, quello più giovane, ma c'era questa sorta di speranza, volete per Wilson, volete per i diritti universali che furono ripresi alla fine della Grande Guerra, e cioè, volete che la persona media pensava che guerre così non ce ne sarebbero più state? Perché io avevo molti racconti di persone che dicevano, ma noi pensavamo proprio che una guerra così non ci sarebbe più stata. Cioè la Grande Guerra era stata uno shock. Infatti ricordo un mio familiare che lui continuava a sostenere che a livello proprio mentale fosse stato il vero shock la prima, non la seconda. Cioè la seconda l'avessero vissuta in un altro modo. Poi c'è stato dello schifo che conosciamo, che non c'era stato nella prima. Però a livello proprio umano era la Grande Guerra che aveva fatto lo shock, perché non c'era mai stata una guerra globale. Non erano, tutte le guerre dell'antichità non erano state globali. Cioè nella Grande Guerra si è combattuto fino all'Artico, e nel Pacifico, e nelle colonie. Chiaro che nella Seconda Guerra Mondiale è stato più amplificato, però nella prima sapere che ci fossero stati lontani chilometri e chilometri aveva un certo peso. La seconda invece parte è la ricostruzione, quindi il passaggio da quello che è il vecchio mondo, quindi un mondo anche che aveva dei sogni, a un nuovo mondo che ripropone il paradigma dei sogni, perché Roosevelt piuttosto che altri, ma lo stesso Churchill, avevano in mente un mondo diverso dopo il 45, e così anche dall'altra parte l'URSS. Un mondo diverso, e anche Bolzano in quel caso visse la ricostruzione in maniera un po' particolare. Cioè, Bolzano fu bombardata varie volte perché era uno snodo anche ferroviario, insomma fu più volte bombardata, ma trovano ancora bombe, e soprattutto ebbe un ruolo strategico dopo il 45, perché è chiaro che da un punto di vista militare cederla... Prego? Certo, certo, diretto proprio, quindi ha subito... Esatto, quindi è stata una zona proprio, zona di confine, ma zona molto importante. Dopo la Seconda Guerra Mondiale chiaramente ci furono una serie di trattative, perché da una parte il patto di Varsavia, quindi l'est, e dall'altra l'ovest, da un punto di vista strategico e militare, dovettero trovare una formula di equilibrio, quindi alla fine fu ceduta la parte della Dalmazia, ma venne tenuta la parte dell'Alto Adige, perché il famoso spartiacque era più difendibile a livello, e poi venne riciclato il Vallo Littorio, quindi il vallo che Mussolini aveva costruito in chiave, pensate, antigermanica, perché quel vallo fu iniziata la ricostruzione quando Mussolini incontrò per la prima volta Hitler a Venezia. Hitler si presentò vestito anche maluccio, perché aveva un soprabito, e Mussolini, che a quel tempo era lui la star d'Europa, con i giornalisti inglesi e italiani, a quel tempo noi eravamo alleatissimi degli inglesi, si fece scappare anche la frase "per me è pazzo". Quindi era il momento in cui Mussolini non si fidava. Visto poi il trattamento dell'Austria, con l'Austria, perché sapete che con l'Austria, insomma, Hitler si impegnò a non fare niente, poi c'erano i figli del cancelliere austriaco a casa Mussolini in ferie quando ci fu l'Anschluss. Quindi tutta la tragedia dell'Anschluss la visse in casa, quindi da quel momento si fidò e non si fidò, anche se poi col patto d'acciaio sappiamo poi come andò a finire. Ecco, in quel periodo storico molto importante, chiaramente fu turbolento anche per la nostra provincia, perché chiaramente, come ricordava la signora, poi finimmo sotto il Terzo Reich, e poi dopo la guerra la ricostruzione dovette essere anche molto, molto a livello psicologico, morale, etico, eccetera, perché c'erano due popolazioni in guerra. La ricostruzione di Bolzano fu una ricostruzione particolare che ha tenuto, insomma, la città abbastanza bloccata fino agli anni 70, cioè i palazzi di un certo peso vennero fatti poi negli fine anni 60, e quindi abbiamo avuto per molto tempo varie testimonianze. Nel paradosso, quello che dico io, che non fu in quel periodo demolita la parte fatta durante il fascismo, fu demolita la parte però austro-ungarica, perché tutti gli hotel molto belli costruiti in epoca di Belle Époque, come l'hotel Bristol per esempio, vennero tutti demoliti in quegli anni lì. Non vennero demoliti né durante il fascismo e neanche prima. e neanche dopo, scusate. Allora, adesso vi faccio vedere anche delle altre foto. Mi siedo solo un attimo. Allora, ecco, questa è una foto della Bolzano della ricostruzione. Più che altro quello che a me ha fatto un po' sorridere di questa foto, perché c'è quel vota socialismo, e nella ricostruzione il viale dove si trova questa parata era stato in realtà pensato per fare altre parate. fa sorridere come la storia delle volte crei dei paradossi, perché poi fu utilizzato per manifestazioni di tipo pacifico, fu utilizzato per tutt'altro. Quindi questo vialone per molti anni fu utilizzato per dei valori invece della Repubblica. E il vota socialismo è bello perché il socialismo rappresentava una delle anime della Repubblica, e rappresenta tuttora una delle anime della Repubblica, e quindi questa foto, diciamo, può dare della speranza. Cioè un impianto architettonico costruito per delle parate militari che un po' volevano ricordare anche l'antica Roma, e che questa avete riconosciuto che via è, no? Ecco, questa via non è stata costruita a caso così. È una bisettrice che taglia completamente e arriva a Gries, perché tu da Piazza Gries devi vedere il catinaccio. Sullo sfondo c'è il catinaccio, quindi l'idea era quella proprio di tagliarla dritta. Uno dei motivi poi perché fu demolita la torre del museo, sapete, il museo, poi hanno ricostruito la torre del museo, fu demolita per questioni in realtà non politiche lì, ma di semplice architettura, cioè doveva essere visto meglio il catinaccio, quindi con la scusa si demolì. Molti dicevano politica, in realtà è proprio una questione architettonica, ovvio che poi ne approfittarono per modificare. Però ecco, questa foto l'avevo scelta perché nella ricostruzione, vi leggo quello che ho scritto, qui siamo con altri due ragazzi, Giorgio e Anna. Anna, le vedi quelle macerie lì? Perché a Bolzano rimasero le macerie per un po' di anni, anzi c'erano pure i tabelloni che dicevano ai bambini di non tirar su le penne, perché sapete che c'erano degli ordigni che erano simili a penne, matite, eccetera, e non erano pochi i bambini che rimanevano mutilati, non per niente. La scuola di Don Milani nasce con i bambini mutilati dopo la guerra, non durante. Quindi è un periodo molto teso anche quello, da quel punto di vista, per chi è bambino, perché da una parte c'è il gioco molto libero, per esempio in Via Resia molti hanno giocato dove c'era il campo di sterminio, perché non c'era un grande spiazzo, quindi venivano buttati a giocare lì. Quindi c'era un senso anche di libertà, dall'altra però c'erano ancora dei pericoli derivanti dalla guerra, e a quel tempo è chiaro che veniva tutto risolto con ti do... cioè guarda che ti scoppia una mano, cioè veniva fatto in maniera un po' spartana. Però nella mente di questi bambini, per esempio mia mamma è del 58, però ricordava ancora queste cose, mio papà del 53, lui se lo ricordava molto bene. Nella testa di un, cioè lui la prende in maniera tranquilla, però nella testa di un bambino non è una cosa molto tranquilla, guarda se vai a giocare là ci può essere una bomba. Quindi per farvi capire quanto è cambiata anche la mentalità, cioè pensate a oggi che basta magari guardare storto una persona e vai da 10 psicologi, lì invece no, guarda, andavai a giocare di là, però sta attento perché ci potrebbe essere una mina. Cioè, quindi anche questi bambini, che infatti sono quelli che sono di una certa generazione e che secondo me con l'ultimo lockdown se ne sono un po' fregati, perché avevano una mentalità un po' più addestrata della nostra, e sono quelli che hanno avuto meno problemi psicologici, anche se gli anziani da soli, questo. Però giustamente una signora che capita di fronte a casa mia mi disse: beh, io sono da sola tutto l'anno, almeno adesso siete tutti nella mia condizione. Le andavo a fare la spesa, e quindi ogni tanto le andavo a fare la spesa, e si fidava anche a darmi il bancomat. Vabbè, io chiaro non sono un lestofante, però insomma si è fidata a darmi il bancomat, perché era completamente da sola, i figli abitavano via, e quindi così. Però lei mi disse questo: fa, beh, io sono abituata a star qua da 91 anni, sono abituata a star da sola, quindi un giorno più, un giorno in meno, eccetera, eccetera. Quindi in quel periodo lì di lockdown mi sono sentito un po' di ricordi di mia nonna quando andava al bunker, al virgolo. Lei per andare al bunker si vestiva con la pelliccia, perché al bunker si va vestiti bene. Cioè pensate alla mentalità, cioè il problema era di avere dei vestiti buoni da farsi vedere con qualcosa di buono addosso. Gli esseri umani si adattano. Infatti c'è una sua foto, che purtroppo oggi non ho, dove lei sotto al virgolo è bella impettita con mio zio in braccio, che dimostra che lei comunque è a posto, è truccata e tutto il resto. Quindi per farvi capire, era una ragazza, perché era del 16, lì eravamo nel 43, quindi era una ragazza, però nella sua testa era più importante apparire in ordine anche durante un bombardamento. Quindi io ho messo queste parole, ma guarda, l'orologio è rimasto intatto. Anna, un piccolo miracolo, considerando quanto abbiamo sofferto ora che la guerra è finita, cosa pensi che ci riserverà il futuro? Già che l'orologio è rimasto intatto è una speranza, perché nella demolizione ci rimane un simbolo della città. Me l'aveva detto sia un berlinese e sia una persona che aveva vissuto a Stalingrado. Berlino distrutta, però c'era qualcosa in piedi e lui mi aveva raccontato, io guardavo quei pezzi di monumenti e dicevo, beh, ma tutto sommato da lì possiamo ricostruire qualcosa. Quindi nella testa di chi vede il proprio paese distrutto, però quell'orologio, in questo caso io ho messo l'orologio, potevo mettere qualcos'altro, ti dà quel senso di speranza. E spero in una Bolzano rinata dove possiamo curare non solo le ferite del corpo ma anche quelle della città. L'orologio segna ancora il tempo e noi con esso ricostruiremo pezzo per pezzo. Ecco, la distruzione dell'orologio, anche se poi è stato distrutto un bellissimo teatro vicino alla stazione, il vecchio Teatro Verdi, ma avrebbe significato forse qualcosa di diverso per persone che hanno vissuto quell'epopea dei bombardamenti. Allora, questo... dov'è? Adesso ve lo farò vedere un'altra immagine. Ecco, questo è un altro viale che adesso oggi lo conoscete, penso no, che voi lo riconosciate, per farvi capire com'era strutturata la città a quel tempo, quindi con queste bisettrici lunghissime che danno l'idea proprio di profondità, e in fondo, come vedete, c'è un edificio spesso di color bianco. Perché il bianco e il marmo? Perché Mussolini un po' imitava Augusto. Augusto era famoso per questa frase ai romani, diceva mi avete dato una città di mattoni rossi e io ve l'ho riconsegnata di marmo bianco. E quando arrivavano le ambascerie a Roma, Augusto preparava il percorso perché quando questi scendessero dalla carrozza gli arrivasse addosso il sole, di solito doveva essere una bella giornata, se no li faceva alloggiare, li faceva aspettare un po', gli arrivasse addosso il sole e rimanessero abbagliati da Roma. Questa era la psicologia di Augusto, che è uno degli imperatori più feroci che abbia mai avuto Roma, tant'è che è peggio di... cioè in realtà Nerone non era così feroce come Augusto, però noi abbiamo in testa la Pax Augustea e tutti i libri di storia che ci hanno raccontato un certo tipo di... Ovviamente queste strade sono un po' riprese con quello spirito, quindi una persona arriva e dice mamma mia che vialoni, siete mai stati all'Euro a Roma? All'Euro a un certo punto ti gira la testa, perché quando tu vai a vedere il Colosseo quadrato non arriva mai. Ti sembra vicino perché è grande, è quadrato, quindi il quadrato non è tondo, invece il Colosseo vero è diverso, perché quando lo vedi da lontano tu già ti aspetti. Quello quadrato, quando scendi dalla metropolitana dici, beh, ma è qua. No, è lontano, però non arriva mai, ed era stato fatto apposta quel tipo di percorso, per far vedere, qui proprio vedete che è l'architetto che ci mette proprio tutto se stesso. A me piace la frase di Vasari, che è il creatore del Rinascimento, che dice... l'architetto è il mestiere più bello, cammini nei tuoi sogni. Io aggiungo che chi ha invece progettato l'Università di Bressanone sarà mangiato una peperonata, perché ogni volta ti perdi per andare al bagno, hanno fatto una roba. Però evidentemente i sogni di quell'architetto erano diversi da quelli di Vasari, però per farvi capire quanto ci credessero in questo tipo di... Ecco, vi metto una cartina, una mappa che ho ricostruito io sul tram, no, sì, questa l'ho ricostruita io. Queste sono le linee del tram, della vecchia linea tramviaria, che partiva, come sapete, da Piazza Walter, no? E aveva varie linee. Io, vabbè, ce n'era una che io ho detto rossa, perché poi non ricordo tutti i nomi, comunque andava a San Giacomo e quindi passava sul Ponte Loreto. Poi c'era un'altra linea che andava a Renon, ovviamente quello non era un tram, perché dopo, prima del Renon, si agganciava la cremagliera e saliva poi verso il Renon, poi chi vuole vederlo ovviamente sa che non c'è, e l'altra linea andava a Gries. Quella di Gries, che era questa qui, no? I trenini, insomma, tutte le varie attrezzature erano dove adesso c'è praticamente l'edificio della Banca d'Italia. Quella era la vecchia autorimessa, quella zona lì. Quindi, per farvi capire che la linea era importante, le linee, cioè non era proprio una robetta, ma perché Gries doveva essere collegato alla città nuova. che in realtà era quella più vecchia, però in realtà quando hanno costruito la stazione dei treni hanno detto sì, però come ci arriviamo fino a Gries? Ci hanno fatto il tram, quindi il tram era proprio funzionale e arrivava fino a Gries, che era più una zona poi di villeggiatura, come sapete, eccetera, eccetera. Quindi era parecchio strutturata questa struttura del tram. Poi ovviamente fu tolta perché si puntò alle gomme. Questa è la costruzione e la posa dei binari del tram verso Gries, in via della Mostra. Se si apre l'immagine siamo tutti più felici, eccola qua. Questa è un'immagine interessante perché, vedete, via della Mostra è piccolina, è una via piccolina, quindi stretta, e il tram, insomma, passare in quella via lì faceva rumore, però era un rumore che piaceva perché era il rumore della modernità, quindi non c'erano bolzanini che, insomma, ce l'avevano col tram, eccetera, perché dava l'idea di essere proprio in un qualcosa di diverso, in qualcosa di più moderno. Io arrivo intanto al terzo capitolo, così arriviamo verso la conclusione, e siamo negli anni 70 e 80, quindi ci sono altri venti di cambiamento. La prima era di cambiamento sta agli anni 20, che poi hanno portato. Poi è stata una seconda era di cambiamento, gli anni 70, poi 80, però i 70 sono stati molto tumultuosi, quindi rivoluzioni culturali piuttosto che. E effettivamente c'era un reflusso del moderno, in quel caso lì, dell'antico, cioè. Come nel Novecento c'era stato il futurismo che aveva detto no, basta con le poesie, vi ricordate, no, a scuola si arrivava al futurismo e c'era l'assedio ad Adrianopoli, tutta quella poesia col tum, tramp, bunk, no? Quelle provocazioni letterarie. Così negli anni 70 un po' viene visto come arcaico tutto quello che è prima del 68, e in maniera delle volte corretta, delle volte esagerata, perché essere contro la storia è essere non nel futuro. Quindi chi fa i discorsi antistorici di solito sono i dittatori, perché devono modificare il presente e raccontarti che la storia non è andata come l'avevi letta, ma se la modificano. Quindi essere antistorici, non studiare la storia, produce della roba che non funziona molto bene, come essere troppo autodidatti. Se non hai una guida quando studi, Hitler aveva una biblioteca che era il triplo del Centro Trevi. Eppure non mi sembra che quelle letture l'abbiano aiutato nella sua epopea, ma perché quando tu sei un autodidatta studi quello che ti pare e soprattutto interpreti, quindi viene fuori che Nietzsche è nazista, tutte quelle cose strane. In realtà Nietzsche non è mai stato proto-nazista, come nel film Scipione l'Africano non può essere proto-fascista. Sono delle stupidaggini incredibili, però non dobbiamo fuggire dalla cultura romana e della romanità e dire che è tutto sbagliato se vedi un'aquila, eccetera, o un fascio, cioè il fascio littorio a Roma era un simbolo totalmente al contrario di quello che ci hanno veicolato. Stessa cosa il nazismo con i simboli del sole. Il simbolo nazista per eccellenza è un simbolo indiano, perché questi avevano in testa questa storia della terra cava, cose di quel tipo, un simbolo indiano del sole. Lo trovate nelle culture mesoamericane, americane, indiane, Bangladesh, la svastica. Infatti mi ricordo un amico una volta che fa, a te che piace la storia, qui è pieno di svastiche, sì, dietro perché sei all'interno della popolazione del sole. Era andato a vedere delle rovine in Sud America che proiettavano verso il sole, svastiche da tutte le parti, perché è il sole stilizzato. Quindi, per farvi capire anche la simbologia che c'è dentro questa roba, e che se non studi, c'è un bel libro, Il nazismo magico, non capisci. Poi vai sui forum, in internet, oppure sui social, e fai ancora più confusione, e poi te ne vieni fuori con l'idea che magari, vabbè, tutto sommato, io leggo della roba antisemita ultimamente, pur dicendo che ci sia un'esagerazione, sproporzione di tutto quello che sta succedendo, però delle reazioni di certa gente che non si rende conto neanche di quello che scrive. Quindi dobbiamo un attimino dare la possibilità anche ai ragazzi giovani di avere una guida quando si va a studiare. La nostra Bolzano si sta espandendo, diventando più moderna, eppure alcune cose non cambiano mai. È vero, ma in qualche modo mi fa sentire connessa al passato, anche con tutto quello, con questo nuovo sviluppo, l'essenza della città resta. Carlo, e la musica, Elisa, la musica è ancora il nostro collegamento con il tempo, proprio come l'orologio, perché in queste zone di solito c'è il bar, c'è una musichetta, c'è qualcosa, c'è l'orologio, e tu comunque hai un fil rouge su quello che vivi. Quindi è lì che sono importanti i monumenti. Il monumento lascia un segno di una persona o di uno stile di qualsiasi cosa per le future generazioni, no? Le piramidi avevano quella simbologia, siamo rimasti là, eh? Chi costruisce determinate cose dà questo tipo di simbologia, ci mette dentro quello che gli piace. Stessa cosa in edifici anche moderni. E questa è la chiesa Cristo Re, adesso ve la faccio vedere, che fu anche costruita, quella è una carrozzina, vedete, fu costruita anche in un modo un po' particolare, perché è una chiesa con questi mattoni grossi, non è bianca, porfido, non è bianca però, perché non deve illuminare troppo la via. Quindi è costruita in un certo modo, con degli accordi che ci sono stati e ci furono, e viene lasciata lì come simbolo di sì, fate, ma fate fino a un certo punto. È un po' così. Deve essere un po' dismessa, quindi la grande guerra tra fascismo e Azione Cattolica fu forse, anche quella è poco raccontata, ma fu devastante, perché il fascismo diede quasi la caccia a un certo punto all'Azione Cattolica, a chi ne faceva parte, perché rappresentava effettivamente tutto quello che il fascismo non riusciva a controllare. Cosa si diceva nell'Azione Cattolica? Poi a quel tempo Mussolini era anche parecchio paranoico, quindi bastava un pettegolezzo e lui voleva sapere tutto. Ricordatevi che lui controllava la rassegna stampa, lui la controllava la rassegna stampa, non se la faceva fare, perché da un punto di vista mentale aveva una marcia in più su certe cose. Lui è un ex giornalista, sapeva anche attirare le folle con determinate promesse, si era fatto una palestra nei partiti socialisti, quindi conosceva la pancia delle persone, eh? Aveva avuto un suo... Hitler già di meno, infatti Hitler copia da Mussolini quella parte là, perché lui è un po' diverso, un po' scapestrato. Mussolini è scapestrato, però è maestro, ha provato a insegnare e non è riuscito. Sapete perché? Non teneva le classi. Non teneva le classi perché di solito quelli come lui pretendono la disciplina sugli altri, e poi loro non sono disciplinati, quindi un ragazzo giovane non li segue, di fatto. Li segue il popolo, ma i giovani... Infatti dove partì la rivoluzione contro il fascismo? Nel GUF. Partì nel GUF, cioè fu nel GUF che Napolitano iniziò a scrivere ma forse c'è qualcosa che non va. Perché è proprio la mancanza di empatia con i giovani. Cioè a un certo punto il fascismo non si occupa più dei giovani, se ne occupa solo con le parate, ma non nella testa. Quindi di fatto tutta la resistenza passò tutta dai GUF. Non fu la resistenza esterna. Questo è un altro aspetto che in Italia non viene tanto raccontato, perché iniziamo a scavare e poi succedono guai. Però in realtà il bellissimo libro sui fascisti rossi nasce proprio da là, che secondo me lì invece va studiato, perché è una è un'evoluzione di quello che veniva, che era stato fatto fare a scuola. Quindi questi ragazzi hanno avuto un coraggio anche da leoni, si sono messi di fatto contro il regime, lo facevano in maniera intelligente, c'era anche una rivista che loro potevano compilare e anche criticare Mussolini, e non gli veniva fatto niente nel GUF, perché l'idea di Gentile era quella di non pressare troppo la popolazione, perché sennò te la ti ritrovi contro, perché rispetto ad oggi comunque la riforma scolastica fu fatta da Gentile e Croce. Cioè due filosofi di una levatura che solo a nominarli uno dovrebbe uscire dalle stanze. Cioè Benedetto Croce viene preso nelle università anglosassoni come Vygotsky. Noi invece continuiamo sempre a raccontare una cosa, ma in realtà Benedetto Croce viene studiato, ma ha studiato... A quel tempo la riforma scolastica fu fatta su queste due persone, quindi non è che non abbia contribuito alla formazione di quei ragazzi del GUF. E poi arriviamo al nuovo millennio. Adesso io ho foto del nuovo millennio, io ne metto una di Viale Venezia, e su Viale Venezia vi faccio un piccolo aneddoto, poi vado a conclusione con le parole dei due ragazzi, così sto nei tempi. Viale Venezia è particolare, il rione Venezia è il rione della monarchia. Come sapete l'Italia era divisa era una diarchia, Mussolini e il suo esercito, il re e il suo esercito, Mussolini e la sua polizia, il re e i carabinieri. Allora, tutti i funzionari del Regio Esercito e i funzionari civili pretesero di avere un loro rione e di averlo grazie anche non kitsch. Quindi loro si misero all'interno di villette su stile, non c'erano praticamente le carnevalate e queste persone, questi funzionari avevano preso terreno nel rione Venezia. Il rione Venezia è però ci ha donato un'architettura nuova, perché è un'architettura diversa. Se voi pensate, voi fate Viale Venezia con queste casettine, poi arrivate in Piazza Vittoria monumentale, poi fate il Ponte Talvera, che è stato costruito in ferro proprio per far vedere la modernità, e arrivate in città e vi trovate subito qualcosa di culturale, il museo archeologico, perché per Atoner era anche un po' di ispirazione romantica su questo, costruì un museo lì, volle il museo, gli piaceva il museo, cioè lui lo anche lo potenziò con la cassa di risparmio, vabbè però, e poi ci sono i portici, che sono la classica città del mite Europa, va bene? Ecco, quindi abbiamo tre città diverse, e guardate che se andate a Trento non è così, se andate a Verona non è così. In più al centro di Bolzano abbiamo la Camera di Commercio, che è in stile rinascimentale, perché la De Medici ci ha portato tutto il suo discorso, e in più abbiamo ovviamente l'influenza dell'impero austro-ungarico, perché è bellissimo per esempio adesso che hanno aperto il ristorante Meta qui e si può andare dentro dove c'è l'albero di Sissi, e quella è tutta un'architettura che ci richiama all'impero, e quindi abbiamo l'impero austro-ungarico e fascista, quindi due imperi. Abbiamo i funzionari che fanno una roba del genere come quella che vedete dietro, la città di Altman, che è monumentale perché l'architettura razionalista poi presa dagli architetti, non è che in Francia quando qui c'erano Piazza Vittoria in Francia costruivano il barocco, c'erano comunque delle piazze come quelle che c'erano in Italia, solo che l'architettura era detta razionalista. Da noi il razionalismo lo agganciamo subito al fascismo, perché andava di moda a quel tempo. Prendete una foto anni 30, non è che negli Stati Uniti il cappellino delle donne era diverso, però subito ti viene in mente quello, perché l'Italia in quel momento là stava vivendo quello, quindi psicologicamente è ovvio che l'attacco è quello. E quindi pensate a tutti gli stili architettonici che potete vedere. Poi, piccolo aneddoto, in cima a Viale Venezia, prima di arrivare c'è ancora la casa di Googler. Adesso mi sembra che ci sia uno psicologo, c'è il vecchio Maso Googler, che era il vecchio Maso dove prima c'era il Lido, il vecchio Lido di Bolzano era il Maso Googler. E poi arriviamo agli anni nostri, quindi insomma dopo il 2000, e davanti all'orologio finalmente restaurato, Luca: Marta, guarda l'orologio restaurato, ma sempre lo stesso. Bolzano è cambiata, ma alcune cose rimangono per ricordarci chi siamo. Perché ho fatto una prova e mi sono messo al bar davanti alla stazione dove una volta c'era il Bristol, e da quella posizione, se guardi l'orologio della stazione e tu fossi negli anni 20, 30, 40, 50, 60, 80, il panorama è sempre lo stesso. Quindi ho per quello che ho scelto questa immagine. Poi, piccolo aneddoto, i miei zii, secondo mia zia, almeno poi non so se l'hanno inventato, forse inventato, si erano conosciuti proprio lì. Quindi ho voluto pensare a un loro ipotetico viaggio nella storia. Ma glielo dovevo, perché senza mio zio non sarei qua a parlare di storia, visto che andavo da lui a parlare di storia quando avevo 13 anni, quindi un piccolo tributo glielo dovevo fare prima o poi. Bolzano è cambiata, ma alcune cose rimangono per ricordarci chi siamo. Sì, Luca, ogni volta che passo da qui con i turisti, perché fa la guida turistica la ragazza, racconto la storia di questo orologio, come ha visto la città attraversare le guerre, le crisi e le rinascite. Le nostre guide turistiche sappiate che non lo fanno perché si fermano a Ponte Talvera, cosa secondo me sciocca, perché la città è tutta, quindi sarebbe corretto uscire dalla città storica, fare un bel giro e far vedere anche il rione. Io non dico di andare fino in Viareggio, però almeno il rione Venezia, il monumento, non fermarti indietro, dice, no, qui sembra che c'è la linea di demarcazione. Ecco, su questo per esempio ne ho sentita una volta una davanti al museo archeologico, ovviamente non davanti ai turisti perché non sono un cafone ed era il suo lavoro, il mio non è fare la guida turistica. Gli ho detto: ma perché non andate? Lei mi ha spiegato che per questioni di tempo e di itinerario vogliono tutti quel pezzo là, però mi fa l'idea, non è male, ci penserò. Perché è proprio un abbraccio della città, fai conoscere qual è veramente il senso della nostra città e forse dai anche l'idea di essere multiculturale, che forse abbiamo superato ste cavolo di litigate tedeschi, italiani, eccetera eccetera, ma abbiamo una città che riconosce i valori di tutti, anche se questi valori l'hanno costruiti delle dittature, ma adesso quello che hanno costruito le dittature, come avete visto il voto a socialismo, può essere rimesso in moto con altri ideali. Perché se noi iniziamo ad abbattere, significa che noi siamo uguali ai dittatori. E i talebani abbattono perché hanno paura. Io non ho paura di un monumento, lo spiego. A me non serve buttarlo giù, lo spiego. Se no buttiamo giù Auschwitz e lì allora ci sono dei problemi, perché una volta che abbiamo cancellato quella roba là, diventa difficile poi spiegare alle nuove generazioni, morti quelli che ci sono stati dentro, spiegare cosa successe. Attenzione, perché con la storia, se si gioca, poi diventa più della politica, più del metaverso, eh? È molto più pericoloso. E finisco così, proprio così. E mentre il mondo corre, qui sotto l'orologio, possiamo prendere un momento per riflettere su dove siamo stati e dove stiamo andando. E vabbè, qui poi farò una conferenza nel 2060 e vi dirò come sarà evoluta la città. Io vi ringrazio, sono stato nei tempi perché non volevo fare più di un'ora, ci sarebbe stato tanto altro da dire. Se avete domande me ne potete fare, e vi ringrazio per la pazienza, spero di non essere stato noioso.